posa, l'espressione si esprime. Chi scratch sul vinile, chi attacca l'adesivo per scappa, marker in tasca, abbigliamento nero, bombing, nuova tappa. Aprendo nei freestyle, why style, microfono prova, canzone nuova, vita che si rinnova. Osa, non stare fermo, nell'inferno, nel buio, non mi soffermo, agisco e non ci penso. Il contrario quando il quaderno bianco si riempie di inchiostro caldo, che ti mostro mentre canto, ispirato dal canto della mente. Palazzi, strade, ATM, banali per l'altra gente, mentre sneakers girano perennemente, mostrando le movenze a tempo come un sequencer. Spesse trame metropolitane, tra tram e metropolitane, culture urbane, prepara un fabbisogno come mangiare, l'essenziale, ossigeno per la funzione cerebrale. Si esprime chi sul palco fa le rime, si esprime chi scratcha sul vinile, si esprime chi tagga con lo stile, si esprime chi break e non conosce fine, si esprime chi sul palco fa le rime, si esprime chi scratcha sul vinile, si esprime chi tagga con lo stile, si esprime chi break e non conosce fine. Prima è tanta pratica, lettere in grammatica, esperienze di una cultura che non si sradica, l'arte dell'ascolto della traccia, parlare senza cambiare faccia non lo sanno più fare, lasciando stare i problemi mi diletto in tech su treni neri, auricolari neri, veri valori che non trovi sul dizionario, neppure se nell'armadio c'è un vasto vestiario. Non cambio la mia bomboletta dentro la vieta, c'è il muro che mi aspetta, la pressione ricetta, vernice fresca quando spruzzo con il fret, tag sotto lampioni con l'arredo con me, torno alle tre, non dormo perché riempio i fogli di rap, l'ispirazione c'è, sai che nel cervello c'è un vinile che gira e ogni tanto scratch in fretta sotto la puntina. Si esprime chi sul palco fa le rime, si esprime chi scratcha sul vinile, si esprime chi tagga con lo stile, si esprime chi break e non conosce fine, si esprime chi sul palco fa le rime, si esprime chi scratcha sul vinile, si esprime chi tagga con lo stile, si esprime chi break e non conosce fine, si esprime chi sul palco fa le rime, si esprime chi scratcha sul vinile, si esprime chi tagga con lo stile, si esprime chi break e non conosce fine, si esprime chi sul palco fa le rime, si esprime chi scratcha sul vinile, si esprime chi tagga con lo stile, si esprime chi break e non conosce fine.